dir, wacca di, wacca du. Provo un po' quando lei non vuol più. La più bella che ci sia, non resiste alla magia. Basta dir, wacca di, wacca du. Non dir mai se c'è lei, wacca di. Senza poi anche dir, wacca du. Wakadoo.